Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. 10 milioni gli italiani in viaggio per questo ponte del 2 giugno, vero e proprio test per le vacanze estive. Nell'approfondimento di questa settimana parliamo proprio di bagagli e stili di vacanza. Focus sui trend dedicato invece ai consumi semplici quando l'essenzialità fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità della settimana. Mezzo secolo di storia italiana attraverso l'eccellenza del design. È Unicità d'Italia, la grande mostra allestita al Palazzo delle Esposizioni e al Macro di Roma. Tutti gli oggetti insigniti nei decenni del premio Compasso d'Oro, massimo riconoscimento nel mondo del design, accompagnano il visitatore in un viaggio nella creatività dal 1961 ad oggi. È Apple la marca a maggior valore al mondo, secondo la sesta edizione della classifica sui brand globali, firmata Millward Brown. La mela scalza dalla vetta Google, al primo posto negli ultimi 4 anni. Seguono IBM, McDonald's, Microsoft e Coca-Cola. La ripresa dell'inflazione fa scendere i consumi a tavola, con riduzione record per la frutta 9% e per i prodotti ittici 8%, ma diminuiscono anche il pane, meno 7%, i prodotti lattiero-caseari, meno 6%, e le carni bovine, meno 5%. Lo rileva la Coldiretti su dati Istat, secondo i quali i prezzi dei beni alimentari a maggio hanno toccato i valori più alti da 2 anni a questa parte, con un aumento del 3% circa rispetto all'anno scorso. Dopo 2 decenni di servizio, la piramide alimentare va in soffitta, almeno negli Stati Uniti, dove al suo posto arriverà il piatto nutrizionale, nuovo concept per comunicare agli americani un corretto stile alimentare. Moncler vicina allo sbarco in borsa. Il piumino creato nel 1954 per proteggere gli operai di un villaggio di montagna vicino a Grenoble, simbolo dei paninari negli anni 80, oggi, dove anche per la sera, è pronto per affrontare le grida di Piazza Affari. La borsa della spesa. Quella di oggi in realtà non è una shopping bag, ma una valigia, anzi un trolley, il bagaglio che meglio identifica i viaggiatori di oggi, preferito dal 67% della generazione che la ricerca effettuata da Doxa per la 7ª edizione dell'osservatorio Europcar sugli stili di vacanza degli italiani definisce appunto la generazione trolley. Per una persona su 3 preparare le valigie resta un rito che è già parte delle vacanze. Per un buon 28% invece è un incubo. In media si impiegano 2 ore per farla, in genere il giorno prima di partire. Ci sono però anche i super pignoli, più del 10% degli intervistati che ci mettono anche 4 ore a fare la valigia e iniziano a prepararla almeno 3 o 4 giorni prima. Quest'estate però, ci dice anche questa ricerca, la percentuale di chi non andrà in vacanza torna ad essere più alta rispetto a chi ha in programma un viaggio, 51% contro 49%, riproponendo di fatto la situazione dell'estate 2009. Tra le destinazioni di casa nostra si afferma l'Emilia-Romagna, mentre tra quelle straniere sarà l'anno della Spagna. È l'onda lunga della crisi economica e di quella del Mediterraneo, ci spiega Nicola Fabbri, docente di economia del turismo all'Università Bocconi. Siamo in una situazione dove la crisi ha degli alti e bassi, ma comunque sia non si può affatto affermare che sia conclusa. Lo si vede da, per esempio, 2 semplici elementi. I consumi interni non sono salite, ma sono calati addirittura dello 0,2%. E soprattutto risparmio tratto in beni primari, come l'agroalimentare o attività comunque importanti. Quindi questo chiaramente porta anche a consumare di meno in termini di turismo. La mappa geopolitica di questo momento, la crisi africana, eccetera, influisce ovviamente sui flussi turistici. Ci sarà la tendenza a sostituire le mete estere magari con quelle di casa propria. Il sistema del turismo in Italia però spesso non è competitivo. Sicuramente bisogna tener conto della caratteristica di turismo che si va a fare quando si va nel sud del Mediterraneo, cioè Mar Rosso, per capirci, Tunisia, che un turismo di villaggio, tipicamente, quindi un turismo di intrattenimento puro fatto dal tour operator. L'unica tipologia di turismo che troviamo equivalente in modo immediato è quello dell'Emilia Romagna, che infatti sta salendo. Certo, il problema è che l'Italia sconta un grosso problema di prezzo, cioè i prezzi italiani non sono competitivi rispetto ai prezzi esteri, quindi se abbiamo la possibilità di catalizzare questi flussi dall'Emilia Romagna, perché comunque quella che si avvicina di più come offerta è tutto sommato, i costi sono abbastanza contenuti, invece in molte altre destinazioni sicuramente questo non avranno, penso per esempio al Veneto, penso per esempio comunque alla Liguria o a parte della Toscana, e quindi questo vuol dire che si direzioneranno su mettere estere, tipo la Grecia, la Spagna, che sono comunque più competitive. Basta pensare che una qualsiasi destinazione di Tenerife, parliamo quindi di realtà piuttosto anche importanti, per due settimane uno spende tranquillamente 600-800 euro per un alloggio, quando invece lo stesso alloggio in altre realtà italiane costa magari doppio invece d'agosto. Quali sono le abitudini del turista italiano che si sono principalmente modificate in questi anni? Sicuramente contrazione molto forte dei giorni di vacanza, cioè si tende a viaggiare per meno giorni e a spendere paradossalmente di più al giorno, cioè si vuol fare una vacanza più breve ma dove ci si diverte di più. Dall'altro sicuramente il turista ha cambiato molto la sua programmazione, anche la famiglia che programma il viaggio con molto anticipo una volta, adesso ha accorciato i tempi di prenotazione, quindi occorre molta flessibilità, molta capacità di riuscire a offrire i servizi per periodi brevi senza necessariamente bloccare le settimane in un modo rigido. Vacanze, ma non solo, sulla base di concetti quali low cost, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica, cambiano anche gli stili dell'abitare. Sotto i riflettori del cambiamento c'è il social housing, l'edilizia residenziale sociale, una formula che si colloca a metà strada tra l'edilizia popolare e quella residenziale. Se ne parlerà l'8 giugno prossimo a Eire, la fiera del real estate, cioè del settore immobiliare, giunta quest'anno alla sua 7ª edizione. In Italia siamo indietro di qualche anno rispetto al resto d'Europa, ma ora qualcosa si sta muovendo, ci dice Marco Tamino, presidente di Ingenium Real Estate, che ci spiega a chi sono destinate queste nuove case e com'è possibile realizzarle. Certamente si tratta di un soggetto completamente nuovo rispetto al passato, non deve essere confuso in nessuna maniera rispetto a quello che è stato il destinatario delle case economiche popolari del nostro passato, di qualche anno fa. Si tratta di un soggetto completamente nuovo, un soggetto che ha delle caratteristiche, diciamo, di grande eterogeneità, socialmente trasversali per così dire, include persone che hanno, diciamo, livelli di scolarizzazione bassissima ma allo stesso tempo ricercatori universitari, include pensionati ma anche giovani che stanno cercando il primo impiego. Tratta un po' tutta quella grande area del precariato moderno, nel quale sono incluse persone che non hanno le caratteristiche dell'emarginazione, che erano tipiche dell'abitante della casa popolare del passato. Al contrario, sono i nostri figli. Questo significa che anche le case dovranno essere una cosa completamente diversa e dobbiamo dimenticarci i palazzoni del passato. Dobbiamo innovare completamente il nostro modo di costruire residenze. Questa grande fascia di invenduto residenziale che abbiamo in Italia è legato a un destinatario che non c'è più, la classe media. Noi continuiamo però a costruire come 40 anni fa, 50 anni fa. Noi siamo veramente ancora a un livello molto arretrato di edilizia, quindi innovazione innanzitutto sulle tecnologie, sul modo di costruire. Poi dobbiamo puntare ai temi dell'ecologia, quindi con grande attenzione ai consumi energetici, all'impiego delle energie rinnovabili e tutto quello che sappiamo. E il terzo elemento è che devono essere edilizia low cost, quindi si deve costruire spendendo di meno. Questo è possibile in due modi, razionalizzando e migliorando, diciamo, il prodotto edilizio, e dall'altra parte incidendo sul tema delle aree, e questo è il problema principale, cioè l'housing sociale si fa se riusciamo a lavorare su dei terreni che hanno un costo, diciamo, base o zero o poco ci manca. Ecco. Devono venire da una decisione delle amministrazioni locali di fornire questi terreni in diritto di superficie o a costo zero. Non si tratta di mettere nuove nuove aree, oddio, potrà essere anche quello in certi casi, ma sostanzialmente si tratta di rinnovare i relitti urbani, cioè questi spazi o queste strutture che hanno perso le loro funzioni, potrebbero essere anche centrali, vecchi capannoni, vecchi edifici industriali, palazzi per uffici fatiscenti, ecco. L'housing sociale può essere anche di tipo conservativo, no? Assolutamente, deve puntare sul rinnovo edilizio. L'housing sociale è un bene pubblico, quindi viene fatto con l'aiuto dell'ente locale, delle amministrazioni locali, e questo naturalmente deve avere delle garanzie sul tipo di prodotto e sui prezzi finali. Si fa, se c'è questo triangolo, da una parte l'amministrazione, dall'altra parte il fondo di investimento o comunque una banca o chi finanzia l'operazione, e dall'altra parte l'imprenditore. Non solo l'imprenditore come era una volta, ma questi tre elementi messi insieme possono dare dei risultati e farci guadagnare quel tempo perduto. Nella seconda parte parleremo proprio di semplicità come una delle tendenze del momento. No frills, niente fronzoli, la parola d'ordine nel focus sui trend subito dopo la pausa. Essere e avere. And with simplicity. Spend a little time, just a little time with you. Di nuovo in studio con Essere e Avere, consumi semplici, il tema del focus sui trend di questa puntata. Ne parliamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Dagli alberghi alle banche, dalle palestre al web, al design, alla moda, fino alla musica, alla tecnologia, lo fai, cioè a bassa definizione. Parola ordine no frills, niente fronzoli, tornano a fare tendenza semplicità, autenticità, essenzialità. Patrizia. Semplicità non è un concetto semplice per nulla, anzi è un concetto polisemico con molte diverse declinazioni nei diversi ambiti in cui trova espressione nel mondo dei consumi. Un oggetto icona della semplicità a cui rendiamo omaggio in occasione dei suoi 100 anni è Nivea, la crema di tutte e di tutti, scatola tonda blu di latta, forma elementare archetipica. Rotonda, profumo naturale, una formula semplice, immutata, scritta bianca Nivea Crema, che grazie anche a questo successo secolare è diventata una sorta di ripetizione, perché Nivea vuol già dire crema quando il marchio diventa il prodotto. Questo packaging continua a comunicare essenzialità, così come negli spot televisivi, presidiando un posizionamento di mercato distintivo basato appunto su autenticità e naturale semplicità. Passando a tecnologie e lifestyle, vediamo la semplicità, come già anticipavi, come no frills, dunque niente fronzoli. Una sorta di controtendenza vezzosa, per esempio, quella dei cellulari Jones, progettati dal danese John Doe, che hanno solo due funzioni, fare e ricevere telefonate. Un ritorno radicale alle funzionalità di base, fare a meno del superfluo e dare il giusto peso all'essenziale. Anche forse un tentativo di ridare un ordine diverso alle cose. Col telefono si telefona, col computer si connette, si naviga, con la macchina fotografica si fanno foto, eccetera. Ma sappiamo, nel mondo virtual reale, sempre più mobile, sempre più social, grazie alle tecnologie multifunzione, che sì, la semplicità d'uso è la parola d'ordine, che però non può prescindere anche dall'essere social. Quindi semplicità non solo come sottrazione di funzioni, ma anche come semplificazione delle interfacce, degli usi e dei sistemi di interazione tra individui, ma soprattutto tra aziende e consumatori. Da segnalare Minno, applicazione web creata a Stanford, è un sistema di micropagamento, cioè transazioni online per acquisti esigui e ripetuti, che accredita subito $2 da spendere e uno per ogni amico invitato. Funziona senza carta di credito, niente nuovi account, perché si usa quello di Facebook. Minno è ancora in versione beta e il numero dei partner è ancora molto esiguo, ma apre la strada alla ricerca di soluzioni per nuovi sistemi di micropagamento che saranno decisivi, come dicono molti analisti, per il futuro di molti settori quali l'editoria online, soprattutto musica e video. E anche il futuro del web sarà all'insegna della semplificazione d'uso. Sperimentazioni come Centrally in versione alfa prevedono per esempio la possibilità di creare pagine web di siti aziendali che reindirizzino i contenuti sui vari social network, siti correlati, mappe geolocalizzate, eccetera, attraverso link automatici, per così dire, in modo da non dover duplicare ogni volta o selezionare i contenuti stessi. Nata con le linee aeree low cost, la filosofia no frills dal viaggio in sé ha contagiato altri aspetti della vacanza. Uno dei fenomeni del momento è il glamping. Sentiamo di cosa si tratta. Ma visto che meraviglia! Ma qui è proprio il paradiso terrestre. Piantiamo la tenda, ragioniere? La tenda? Sì. Pronti? Ti attento un attimo. Ecco. Italiani sempre rumore, sempre cantare, chitarra e mandolino. Silenzio, qui dormire, tedeschi noi. Zitto, la smetta con quel mandolino, altrimenti ci cacciano. Shh. Prima cosa piantare i picchetti. Ah, i picchetti. Però mi raccomando, stai attento. Non si preoccupi. Niente più scene fantozziane. Dall'unione di glamour e camping arriva il glamping, campeggio ecologico di lusso, la nuova frontiera della vacanza all'aperto. Al posto di canadesi e sacchi a pelo ci sono gli eco-lodge, tende e bungalow, immersi nella natura, dotati di ogni comfort, letto fisso, arredi di design e connessione wifi. Nato nelle destinazioni calde dell'Africa, il glamping vanta ormai una sessantina di destinazioni anche in Europa. Impronta ecologica, comfort e prezzi contenuti, gli ingredienti di un successo arrivato anche in Italia. A fare da apripista il resort Canonici di San Marco di Mirano, Venezia. Patrizia, semplicità e sostenibilità è il binomio che ha spinto in avanti questa tendenza? Beh, certamente una delle dimensioni della sostenibilità è la riduzione dell'inessenziale, dello spreco, dello sciupio. E nella cosiddetta good enough society, nella cultura cioè del buono quanto basta, tra le soluzioni subottime però smart e molto efficienti, i Google Weddings, i matrimoni semplificati progettati in rete. Si crea un sito con Google Sites, scegliendo la tonalità comunicativa preferita, liste di invitati, indirizzi, cose da fare organizzate con Google Docs, si pubblicano foto e annunci usando Picnic Photo Editing e Picasa Web Album, insomma si risparmia tempo, la pianificazione è garantita e il vecchio motto il meglio a meno vale sempre e incrocia appunto il good enough e il low cost, con low cost che investe anche le palestre. La versione low cost delle palestre spa di lusso Equinox è stata appena lanciata dalla nota catena americana in due punti, New York e New Jersey, gli stessi attrezzi, lo stesso format, lo stesso stile, ma senza il personal trainer, asciugamani, corsi eccetera, quindi servizi aggiuntivi diciamo premium. $20 al mese è la versione semplice del servizio top di gamma. Naturalmente anche l'e-commerce si può leggere in chiave good enough. Rinuncio all'esperienza diciamo dello store, che a volte è faticosissima, pensiamo a quella che si fa da Zara per quanto gratificante, e compro online. I vantaggi sono velocità, risparmio, accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a tutta l'offerta, che sappiamo cambia in continuazione, e consegna in un giorno. La semplicità investe grafica e packaging, che diventano sempre più essenziali quasi fino a scomparire. L'idea è di puntare al minimo indispensabile, ma senza trasformarlo in ovvio. Dunque il packaging di prodotto, semplificato o ridotto o eliminato, si combina con grafiche minimali, spesso in tonalità estetica retro, e questa è una tendenza sempre più diffusa. Un esempio è la birra Carlsberg nella versione Copenaghen, con etichette e logo rivisitati, che esaspera le basica nordica. Altro esempio, stando nel mondo birra, quella di Ferran Adrià Estrella. Il claim dice: a volte il normale può essere straordinario. Dunque semplicità che comunica essenzialità, naturalità e relazione, e eccellenza del prodotto che diventa anche eccellenza della vita, quindi non ha bisogno di confezioni chiassose ma solo di dire quello che è, in questo caso una birra da pasto. Design e semplicità è un binomio a cui siamo già molto abituati, lo troviamo e lo cerchiamo nei complementi d'arredo, nell'arredo degli spazi abitativi, della casa, del retail, dagli ostelli agli alberghi alle banche, e continua questo sodalizio vincente con una ricerca anche spinta su materiali, forme e performance all'insegna della sottrazione, per lasciare appunto solo elementi puri, puliti, minimali. Nella vertigine da iperofferta merceologica, che è la condizione in cui ci troviamo quando scegliamo dallo yogurt ai prodotti tecnologici, alle automobili, ai complementi d'arredo, appunto, ci sono dei concept però come food sticker di Nike che colpiscono per una sorta di cortocircuito tra massima riduzione all'essenza della scarpa, in questo caso, e super prestazione. Lo dice il nome, food sticker, sono delle scarpe di fatto, ma come fossero adesivi, sono in caucciù, sono da applicare solo sotto il piede nudo come una seconda pelle che rimane tale nella sensazione anche del movimento, il piede è protetto e i movimenti sono potenziati così come le performance quando si corre e si cammina. È una sorta di evoluzione delle Five Fingers, le scarpe guanto, che in questa versione però non hanno più la parte sopra. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Singapore su Consumi Semplici e Dintorni? Questo è il momento delle segnalazioni dal mondo con la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Bentornata Alessia. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Lo prenderesti un caffè con me qualche volta? È una domanda comune e sincera, tratta da un film giapponese che è stata l'ispirazione del Kiss Caffè, dove Kit, scritto col TH, sta per amico, appunto. Un luogo concepito e realizzato intorno a gesti semplici e relazioni autentiche e studiato di conseguenza per trasmettere un'idea di elegante minimalismo senza concessioni al design spinto e esibito. Tra le tonalità bianche e i materiali naturali spicca il nero di una lavagna a nastro che corre lungo un'intera parete su cui rigorosamente a mano sono elencate le specialità del giorno. Niente lampade ma solo i nudi bulbi delle lampadine. L'arredo, quello essenziale, quello necessario, è stato realizzato apposta, a mano. E infatti entrando nei soli 28 metri quadrati del locale le persone possono scegliere di sedersi intorno a un lungo e alto tavolo comune alla loro sinistra o su panchette più basse alla loro destra, progettate ad hoc, come dicevo, e interamente realizzate in strati di compensato di varie dimensioni e spessore che, tagliati e sovrapposti in modo leggermente impreciso, danno a tavoli e sedute una parvenza organica pur nella loro linearità. Tavoli e sedute pensati inoltre per essere totalmente flessibili e combinarsi al variare del numero dei clienti per favorirne l'interazione, perché ciclisti, runner e dog sitter che passano qui sulla riva del fiume possano trovare niente di più che buon cibo e buona compagnia. Grazie Alessia. Patrizia, low cost, high value, basso costo, alto valore è una delle formule di maggior successo negli ultimi anni nel mondo dei consumi. Molti brand, molte storie diventate da manuale lo testimoniano. È proprio la semplicità la chiave? Per le aziende usare la semplicità come posizionamento può significare cose molto diverse ed è un'operazione comunque complessa. Certamente per tutti vale l'indicazione a fare più attenzione a cosa chiedono le persone, in quanto persone proprio ancor prima che come consumatori. Quindi pensare a innovazioni adeguate, a una qualità sufficiente, alquanto basta, non compromettere mai la facilità d'uso, eccetera. In una parola, il right contenting, cioè pensare ai contenuti giusti, né più né meno, dai servizi bancari agli alberghi, alle palestre. Oggi il consumatore vuole comprare, possedere o usare quello che gli serve, però sarebbe anche un errore pensare che quel che serve è solo materiale o solo basico e senza bellezza, che invece è sempre più necessaria. Quindi non sono esclusi moda, lusso, design, arte, cioè gli oggetti di cui ci circondiamo e che servono appunto come dispenser di bellezza nelle nostre vite. Essere avere @radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti in attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.